Birmingham, Alabama, 5 gennaio 1986. Evelyn Couch si era chiusa nella stanza da cucito e, mangiando la seconda vaschetta di gelato al cioccolato, fissava il tavolo ingombro dei cartamodelli che non aveva più toccato dal giorno prima in cui, piena di buone intenzioni, li aveva comprati. Ed era nello studio, intento a guardare una partita di football, e questo non la disturbava affatto perché ultimamente, ogni volta che lei mangiava qualcosa di altamente calorico, lui la guardava e, fingendosi sorpreso, chiedeva: «Fa parte della tua dieta?» Aveva mentito al commesso della gelateria, gli aveva detto che il gelato era per una festa di bambini, ma lei non aveva più bambini. Evelyn aveva 48 anni e da qualche parte lungo la strada si era perduta. Le cose erano cambiate così in fretta, mentre allevava i due figli di Prammatica, un maschio per lui e una femmina per me, il mondo era cambiato, diventandole estraneo. Non capiva più le battute, le sembravano tutte insulse, il linguaggio dei tempi moderni la scandalizzava. Alla sua età non aveva mai detto una parolaccia. Così guardava soprattutto vecchi film e programmi di revival. Durante la guerra del Vietnam aveva creduto a ciò che Ed le aveva detto, e cioè che si trattava di una buona guerra, necessaria, e che chiunque vi si opponesse era un comunista. Ma poi, più tardi, quando lei aveva stabilito che tutto sommato non si era trattato di una guerra così buona, Jane Fonda aveva già cominciato le sue lezioni di aerobica e l'opinione di Evelyn aveva perso qualsiasi importanza. Covava ancora risentimento nei confronti di Jane Fonda e le sarebbe piaciuto che la televisione smettesse di trasmettere lo spettacolo delle sue gambe slanciate e come prive di peso. Non si poteva dire che Evelyn non ci avesse provato lungo la strada. Aveva cercato di fare del figlio un uomo sensibile, ma Ed l'aveva terrorizzata, dicendole che sarebbe diventato un finocchio e lei si era tirata indietro, perdendo ogni contatto con lui. Anche adesso il figlio le sembrava un estraneo. Tutti e due i suoi figli l'avevano sorpassata. La femmina Janice, a 15 anni, sapeva sul sesso molto più di quanto Evelyn ne sapesse a 48. Qualcosa era andato per il verso sbagliato. Quando frequentava il liceo, tutto era così semplice. C'erano le brave ragazze e le ragazzacce e tutti sapevano a quale categoria ciascuna appartenesse. Si poteva essere un membro del gruppo in oppure non esserlo. Evelyn era stata tra le elette, niente di meno che una pom-pom girl. Non aveva conosciuto nessuno al di fuori di quella cerchia, soprattutto non i ragazzi con i pantaloni aderenti e le loro amiche con le camicette trasparenti e i braccialetti alle caviglie. Quelli del suo giro indossavano, se erano maschi, camicie di madrassa abbottonate fino al pomo d'Adamo e pantaloni cachi, e se erano femmine, camicette alla marinara e gonne a pieghe. Lei e le sue amiche fumavano una Kent durante le riunioni dell'associazione studentesca e qualche volta bevevano una birra ai pigiama party, ma nient'altro. E soprattutto niente petting al di sotto delle spalle. Forse per questo si era sentita tanto stupida quando aveva accompagnato sua figlia a comprare un diaframma. Evelyn aveva aspettato fino alla prima notte di nozze. E che shock! Nessuno le aveva detto quanto avrebbe sofferto. A tutt'oggi il sesso non le piaceva. Ogni volta che cominciava a rilassarsi si sentiva una ragazzaccia e tornava a irrigidirsi. Era stata una ragazza per bene, si era sempre comportata signorilmente, non aveva mai alzato la voce, aveva sempre rispettato tutto e tutti, e aveva immaginato che prima o poi avrebbe ricevuto una ricompensa per questo, un premio. Ma quando sua figlia le aveva domandato se avesse mai fatto l'amore con qualcuno che non fosse suo marito, e lei aveva risposto: «Certo che no!», la replica era stata: «Che sciocca, mamma, non sai neppure se è bravo o no!». Era vero, non lo sapeva. Alla lunga non aveva importanza se si era stati buoni o cattivi. Le compagne di liceo che erano andate fino in fondo prima del matrimonio, adesso non vivevano nella vergogna in qualche vicolo sporco e mal frequentato, come era parso naturale allora. Erano felicemente o infelicemente sposate, proprio come tutte le altre. Quindi tutta questa battaglia per restare pura, la paura di essere toccata, la paura di compiere un gesto che potesse far impazzire di desiderio un ragazzo, e la paura più grande, quella di restare incinta, erano state soltanto uno spreco di energia. Ora le stelle del cinema sfornavano figli uno dopo l'altro al di fuori del sacramento del matrimonio e davano loro nomi stravaganti come Raggio di Luna o Raggio di Sole. E qual era stata la ricompensa per essersi mantenuta intatta? Aveva sempre sentito dire che non c'era nulla di peggio di una donna ubriaca e non si era mai concessa più di un whisky. Ora i ricchi e famosi si davano il cambio al Betty Ford Center, facendosi scattare fotografie e organizzando feste fantasmagoriche quando ne uscivano risanati. Si era spesso chiesta se il Betty accettasse anche persone bisognose di perdere una quindicina di chili. Una volta sua figlia le aveva fatto provare una sigaretta di marijuana, ma dopo che le pattine in cucina avevano cominciato a volarle intorno, lei si era spaventata e non aveva più voluto saperne, quindi la droga era da escludere. Evelyn si domandava a quale gruppo appartenesse, in quale posto potesse sentirsi a proprio agio. Una decina di anni prima, quando Ed aveva cominciato a vedersi con una collega della compagnia di assicurazioni, lei aveva frequentato un gruppo chiamato La Donna Completa nel tentativo di salvare il proprio matrimonio. Non era sicura di amare Ed alla follia, ma di certo lo amava abbastanza per non volerlo perdere. E poi che cosa avrebbe fatto senza di lui? Aveva vissuto con suo marito tanto a lungo quanto con i genitori. L'organizzazione credeva che le donne potessero trovare la più completa felicità se si fossero dedicate anima e corpo a rendere felice il marito. La leader aveva spiegato che tutte le donne ricche in carriera che sembravano tanto realizzate erano in realtà tremendamente sole e tristi e in segreto invidiavano il sereno ménage familiare delle donne comuni. Era difficile immaginare che Barbara Walters fosse disposta a rinunciare a tutto per vivere con Ed Couch, ma Evelyn ci aveva provato. Naturalmente, anche se non era religiosa, era un conforto sapere che la Bibbia difendeva il suo ruolo di scendiletto. L'apostolo Paolo non aveva forse detto che le donne non devono usurpare il potere agli uomini, bensì devono restare in silenzio? Così, sperando di aver imboccato la strada giusta, aveva cominciato a salire la scala dei 10 gradini che portano alla completa felicità. Aveva provato il primo gradino andando incontro a Ed sulla porta di casa tutta nuda, avvolta in uno scialle, ma lui aveva sbarrato gli occhi e dopo essersi entrato precipitosamente, aveva sbattuto la porta dicendo: «Santo cielo, Evelyn, se fosse stato ragazzo del giornale, sei diventata matta!» Così Evelyn non aveva mai intrapreso il passo successivo, presentarsi nell'ufficio di lui vestita come una prostituta. Ma ben presto la leader del gruppo, Nadine Fingerhut, aveva ottenuto il divorzio e aveva dovuto mettersi a lavorare, così il gruppo si era sciolto. Poi, dopo un po', Ed aveva smesso di vedere quella donna e tutto si era sistemato. Più tardi, sempre alla ricerca di una soluzione, Evelyn aveva tentato di entrare nel Women's Community Center. Le piacevano le loro rivendicazioni, ma in segreto avrebbe desiderato che si mettessero almeno un'ombra di rossetto e si depilassero le gambe. Lei era sempre l'unica truccata con i collanti e gli orecchini. Aveva fatto di tutto per inserirsi, ma quando la leader aveva proposto di portare per la prossima riunione uno specchio per potersi esaminare la vagina, aveva deciso di rinunciare. Ed diceva che quelle donne non erano altro che un mucchio di vecchie zitelle frustrate, troppo brutte per trovarsi un uomo. E così Evelyn si era ritrovata al punto di partenza, troppo annoiata per partecipare ai tè pomeridiani con le altre casalinghe del quartiere e troppo spaventata per guardarsi la vagina. La sera in cui lei e Ed erano andate insieme con gli ex compagni di liceo alla cena per festeggiare i 30 anni dalla maturità, Evelyn aveva sperato di trovare qualcuno con cui confidarsi, ma tutte le altre donne erano confuse quanto lei e si tenevano aggrappate ai rispettivi mariti e bicchieri. La loro generazione sembrava in bilico, in cima a un muro, incapace di decidere da quale parte saltar giù. Dopo la riunione, aveva passato ore e ore a guardare le fotografie della classe e aveva cominciato ad aggirarsi per le strade che aveva frequentato allora. Ed non le era di alcun aiuto. Ultimamente si comportava sempre più come suo padre, assumendo tutti gli atteggiamenti che secondo lui più si addicevano all'uomo di casa. Diventava ogni giorno più chiuso e il sabato passeggiava per ore intorno al consultorio familiare alla ricerca di qualcosa che neppure lui sapeva. Andava a caccia e pesca e guardava le partite di football come tutti gli altri uomini, ma Evelyn cominciava a sospettare che anche lui stesse solo recitando una parte. Evelyn guardò nel bicchierino vuoto e si domandò che fine avesse fatto la ragazza sorridente delle foto di tanti anni prima. Il giornale della signora Wims. Bollettino settimanale di Whistlestop, Alabama, 2 novembre 1932, fondato a Whistlestop il Club dei Maiali. Su incoraggiamento dei servizi ausiliari dell'Università dell'Alabama è stato formato il Club dei Maiali di zona. Chiunque desideri informazioni deve chiamare la signora Berta Vick a casa. Berta dice che una certa Zula Heidi Kittrell, Carolina del Nord, in soli 7 giorni si è procurata un maiale cinese di razza purissima registrata e secondo lei anche voi potete riuscirci se solo lo volete davvero. Dice che essere proprietari di un maiale di razza è un segno di distinzione per voi e per la vostra comunità e vi avvierà sulla strada del benessere. Potrebbe rappresentare l'inizio di un reddito fisso per il resto dei vostri giorni e soprattutto durante la vecchiaia. Iggy ha installato nel suo caffè una radio Philco nuova di zecca e chiunque voglia ascoltare un programma è invitato ad andare da lei. Non sarà obbligato a ordinare nulla da mangiare. Dice che la radio si sente bene, soprattutto la sera. Per finire, qualcuno sa come eliminare le impronte di cane nel cemento fresco? Se sì, telefonatemi o passate a dirmelo all'ufficio postale. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 12 gennaio 1986. Evelyn aprì la borsetta e offrì alla signora Threadgood uno dei tramezzini al formaggio piccante che aveva portato da casa, avvolti in carta oleata. La signora Threadgood ne fu deliziata. Oh, grazie, li adoro! A dire il vero, mi piace tutto quello che ha un colore appetitoso. Non trova che il formaggio piccante abbia un colore appetitoso? È così allegro. Mi piace anche il peperoncino rosso e adoravo le mele candite, ma adesso non posso mangiarne più a causa dei denti. Ora che ci penso, mi piace tutto ciò che è rosso. Rimase pensosa per qualche istante. Avevamo una gallina rossa di nome Sister un tempo, e ogni volta che andavo in giardino le dicevo: Sister, non beccarmi i piedi, carina, altrimenti ti friggo con un bel contorno di gnocchi di patate. E lei inclinava la testa e si allontanava zampettando. Beccava tutti tranne me e mio piccolo Albert. Non siamo mai riusciti a mangiarla, neppure quando ci fu la depressione. Morì di vecchiaia. Quando andrò in paradiso insieme con tutti i miei parenti, spero di trovare anche Sister e Cookie, il procione. Di certo ci troverò Sipsy. Non posso nemmeno immaginare da dove venisse Sipsy. La provenienza dei neri è spesso un mistero. Aveva 10 o 11 anni quando cominciò a lavorare per mamma Threadgood. Veniva da Trotville, i quartieri dei neri dall'altra parte dei binari. Disse di chiamarsi Sipsy Peavy e di essere in cerca di un lavoro. E la mamma la tenne con sé. L'aiutò ad allevare tutti i bambini Threadgood. Sipsy era piccola e magra e tanto divertente, aveva tutte quelle vecchie superstizioni dei negri. Sua madre era stata una schiava e lei aveva il sacro terrore degli incantesimi. Disse alla mamma che la sua vicina Trotville aveva messo una certa polverina gialla nelle scarpe di un certo uomo ogni notte per mesi e gli aveva fatto perdere le sue funzioni. Ma quello che la spaventava più di ogni altra cosa erano le teste degli animali. Se le portavi un pollo, un pesce o uno dei maiali che Big George uccideva ogni tanto, non lo toccava e non lo cucinava finché non ne aveva seppellito la testa in giardino. Diceva che se non seppellisci la testa, lo spirito dell'animale ti entra nel corpo, facendoti diventare pazzo. Una volta papà se ne scordò e portò in casa un formaggio a forma di testa di porcellino. Sipsy corse via gridando come un'ossessa e non tornò finché la casa non fu esorcizzata da una sua amica. Deve averne seppellite a centinaia di teste in giardino. Ma proprio per questo i nostri pomodori, i nostri gombi e le nostre zucche erano i più grandi di tutta la città. Rise. Buddy lo chiamava il giardino delle teste di pesce. Eppure, a dispetto di queste sue paure, in tutto lo stato dell'Alabama non c'era una cuoca migliore. Già a 11 anni cucinava i migliori biscotti e il miglior ragù, per non parlare delle crostate di frutta, del pollo fritto, delle cime di rapa e dei fagioli dell'occhio. I suoi gnocchi erano così leggeri che volavano per aria e bisognava acchiapparli al volo per mangiarli. Tutte le ricette del caffè erano sue. Fu lei a insegnare a Iggy e a Ruth tutto quello che sapevano su come si cucina. Non so perché Sipsy non abbia mai avuto dei bambini suoi. Nessuno amava i bambini più di lei. Tutte le donne di colore di Trotville le lasciavano i loro figli a dormire quando volevano uscire e divertirsi un po'. Sapevano che si sarebbe presa cura di loro. Sipsy diceva sempre che nulla la rendeva più felice di avere un neonato da cullare. Li cullava e cantava loro ninne nanne per tutta la notte e si immalinconiva all'idea di non averne di suoi. Poi, un pomeriggio di novembre, intorno al ringraziamento, mentre fuori stava gelando e gli alberi erano già tutti spogli, Sipsy era al piano di sopra a rifare i letti, quando una sua amica della chiesa dei neri arrivò in giardino chiamandola a gran voce. Era tutta eccitata e le spiegò che alla stazione c'era una ragazza di Birmingham alla ricerca di una madre adottiva per il suo bambino. E le disse anche di sbrigarsi perché il treno stava per ripartire. Sipsy corse giù per le scale veloce come il vento, con addosso solo un abitino di cotone e il grembiule. Quando uscì dalla porta della cucina, mamma Threadgood le gridò di mettersi almeno il cappotto, ma lei rispose: «Non ho tempo, signora Threadgood, sto per avere un bambino!» E sparì. La mamma rimase sotto il portico ad aspettarla e poco dopo vide il treno allontanarsi e Sipsy tornare con un sorriso da un orecchio all'altro e le gambe tutte graffiate e sanguinanti per avere corso tra i rovi. In braccio portava il bambino più grasso e più nero che abbia mai visto, tutto avvolto in un asciugamano con la scritta Hotel Dixie, Memphis, Tennessee. Sipsy disse che la ragazza stava tornando a casa e non osava presentarsi con un neonato perché suo marito era chiuso in galera da 3 anni. Così non sapemmo mai il vero nome del piccolo. Sipsy Sipsi decise che dal momento che era venuto in treno lo avrebbe chiamato George Pullman Peavy, in ricordo dell'uomo che aveva inventato la carrozza Pullman. Ma chiunque fosse il suo vero padre, doveva essere stato un uomo gigantesco perché George raggiunse la statura di 1,90 m e il peso di 120 kg. Quando era ancora un ragazzino, papà lo prese in negozio e gli insegnò il mestiere di macellaio. A 10 anni uccideva già i maiali e Sipsi era così orgogliosa di lui. Non avrebbe potuto amarlo di più se fosse stato davvero suo figlio. Lo abbracciava e gli diceva: tesoro, anche se non sono stata io a metterti al mondo, questo non significa che tu non sia mio. E poi, quando Big George venne processato, lei si mise l'abito della domenica e andò in tribunale ogni giorno con la pioggia e con il vento. Doveva avere quasi 90 anni ormai, ma è difficile stabilire l'età di un negro. Cantava sempre i suoi spiritual, nella carrozza bagagli, e tornerò a casa con il primo treno del mattino. Sempre canzoni sui treni, insomma. La notte prima di morire, disse a Giorgio che aveva sognato Gesù. Era tutto vestito di bianco, era il conducente di un treno di fantasmi ed era venuto a prenderla per portarla con sé in paradiso. Ma alla bella età di 80 anni cucinava ancora il caffè. È per questo motivo che ci andava tanta gente, per le sue ricette. Di certo non per l'eleganza del posto. Quando Iggy e Ruth lo comprarono, era un unico grande stanzone. Stava dall'altra parte della strada rispetto ai binari, vicino all'ufficio postale dove lavorava Dot Wims. Ricordo ancora il giorno in cui aprirono il caffè. Julian e Cleo avevano costruito 4 separe di legno e le stanze sul retro perché Iggy e Ruth avessero un posto dove vivere. La zona riservata ai clienti aveva le pareti di pino nodoso della Georgia e il pavimento di legno vecchio. Ruth fece del suo meglio per abbellire il posto. Ci mise un quadro con una nave che veleggiava al chiaro di luna, ma Iggy lo staccò e lo sostituì con un altro che mostrava 4 cani seduti attorno a un tavolo da gioco con il sigaro in bocca e le carte da poker in mano. E sotto ci scrisse: il Club dei Cetrioli Sott'aceto. Era il nome di quell'assurdo club fondato da lei e dal suo amico Grady Kilgore. Poi c'erano gli addobbi natalizi che avevano messo il primo anno e che Iggy non tolse più, e un vecchio calendario delle ferrovie, nient'altro. I tavoli erano solo 4 e le sedie erano tutte sgangherate. Rise, non sapevi mai quando ti sedevi se ti avrebbero retto o no, e non ci fu mai un registratore di cassa. Tenevano i soldi in una scatola di sigari. Al banco avevano una rastrelliera con patatine fritte, ciccioli, pettini, tabacco da masticare, esche per pescare e popcorn. Iggy apriva il caffè all'alba e non lo chiudeva fino a quando, parole sue, anche l'ultimo cane non aveva sloggiato. Le rotaie di smistamento della LNN erano 2 isolati e tutti quelli che lavoravano alle ferrovie, negri e bianchi, mangiavano al caffè. I negri Iggy li serviva dalla porta sul retro. Naturalmente a molti non piaceva l'idea che Iggy desse da mangiare ai negri e lei passò anche qualche guaio per questo, ma diceva che nessuno aveva il diritto di decidere che cosa poteva e non poteva fare. Secondo Cleo affrontò tutta sola il Ku Klux Klan e non si fece fermare neppure da loro. Per quanto fosse una pasta, Iggy diventava una belva quando si trattava di difendere i propri diritti. Caffè di Whistle Stop, Whistle Stop, Alabama, 22 marzo 1933. Iggy stava bevendo caffè e conversando del più e del meno con Smokey, il suo amico vagabondo. In cucina, Sipsy e Onsel stavano friggendo pomodori verdi per i clienti fissi dell'ora di pranzo, che sarebbero arrivati intorno alle 11:30, e intanto ascoltavano alla radio l'ora del Vangelo. Fu allora che Ozzie Smith bussò alla porta della cucina. Sipsy andò in sala, asciugandosi le mani sul grembiule. «Signorina Iggy, c'è un ragazzo di colore che le vuole parlare!» Iggy andò alla porta sul retro e riconobbe Ossie Smith, un suo amico di Trutville che lavorava alla ferrovia. Salve Ossie, come va? Benone, signorina Iggy. Che cosa posso fare per te? Signorina Iggy, siamo in tanti a lavorare giù ai binari e sono 2 mesi che ogni giorno sentiamo il profumo del barbecue, ci tira matti, signorina Iggy. E ci stavamo chiedendo se non sarebbe disposta a venderci qualche panino imbottito con carne alla brace o qui i soldi. Iggy sospirò e scosse la testa. Lascia che ti dica una cosa, Ossie. Sai bene che se dipendesse da me vi farei entrare dalla porta principale e vi farei sedere a un tavolo, ma purtroppo non mi è concesso. Lo so, c'è della gente in città che mi manderebbe a fuoco il locale nel giro di una notte e io devo pur guadagnarmi da vivere. Sì, signora, lo sappiamo, ma voglio che tu torni dai tuoi amici e dica loro, quando vogliono qualcosa, di venire pure a bussare alla porta della cucina. Lui sorrise. Sì, signora. Dite a Sipsy quello che volete e lei ve lo preparerò. Sì, signora, grazie, signora. Sipsy, dagli i suoi panini e tutto quello che desidera, dagli anche della torta. Si sta cacciando in un sacco di guai, borbottò Sipsy, e io credo proprio che me ne andrò. Non mi vedrà più da queste parti, signorina Iggy. Ma preparò i panini, il succo d'uva e la torta e mise il tutto in un sacchetto di carta insieme a un tovagliolo. 3 giorni dopo, Grady Kilgore, lo sceriffo locale e investigatore per le ferrovie a tempo perso, venne al caffè tutto agitato. Era una montagna d'uomo ed era stato molto amico del fratello di Iggy, Buddy. Appese il cappello alla rastrelliera, come al solito, e disse a Iggy che aveva bisogno di parlare molto seriamente con lei. Iggy gli servì il caffè nel separé e si sedette. Grady si sporse sul tavolo e di malavoglia cominciò a parlare. Vedi, Iggy, non dovresti vendere da mangiare a quei negri, lo sai. Ci sono dei ragazzi in città che non ti approvano. Nessuno vuole mangiare in un locale frequentato dai negri, non è giusto e tu dovresti saperlo. Iggy ci pensò per un momento, poi annuì. Hai ragione, Grady, dovrei saperlo. Grady si appoggiò allo schienale. Sembrava soddisfatto. Sì, seguitò lei, è strano come la gente continui a fare cose che non dovrebbe fare. Anche tu non sei da meno, eh? Molti potrebbero disapprovare la tua abitudine di andare al fiume a trovare Eva Bates ogni domenica dopo la funzione in chiesa. Gladys, per esempio, potrebbe esserne molto contrariata. Grady, che era allora diacono della Chiesa Battista e aveva sposato Gladys Motes, nota per il suo caratteraccio, si imporporò. Non è divertente, Iggy. A me invece sembra di sì, e trovo buffo anche che un gruppo di uomini adulti inzuppati di liquore si mettano delle lenzuola sulla testa e vadano a disturbare la brava gente. Grady chiamò Ruth, che era dietro il banco. Ruth, vorresti cercare di far ragionare la tua amica? Non vuole darmi ascolto. Sto solo cercando di tenerla alla larga dai guai. Non voglio fare nomi, ma c'è qualcuno in città che non approva la vostra amicizia con i negri. Iggy accese la sua Camel e sorrise. Ti dirò una cosa, Grady. La prossima volta che queste persone verranno qui, per esempio Jack Butts, Wilbur Wims e Pete Tidwell, chiederò loro come mai non hanno abbastanza sale in zucca da cambiarsi le scarpe se non vogliono essere riconosciuti quando camminano in tondo in una delle vostre assurde parate. Aspetta un momento, Iggy. Al diavolo, Grady, a chi credi di darla a bere? Le riconoscerai ovunque quelle tue scarpacce. Grady si guardò i piedi. Stava perdendo la sua battaglia. Anch'io voglio dirti qualcosa, Iggy. Vuoi smetterla o no? Ruth, vieni qui e aiutami a convincere quest'asina testarda. Ruth si avvicinò al tavolo. Ma via, Grady, che male c'è a vendere qualche panino dall'ingresso posteriore? Non si siedono mica ai tavoli? Non so, dovrò parlarne con i ragazzi. Non fanno del male a nessuno, Grady. Lui rifletté per qualche istante. E va bene, almeno per ora, puntò l'indice su Iggy, ma devono rimanere sul retro, chiaro? Si alzò per andarsene, mise il cappello e si voltò un'ultima volta verso Iggy. Giochiamo a poker venerdì? Sì, alle 8 e porta tanti soldi perché mi sento fortunata. Lo dirò a Jack e agli altri. Ciao Ruth, ciao Grady. Iggy scosse la testa e lo guardò uscire. Ruth, avresti dovuto vederlo, quel bue, ubriaco, fradicio, in riva al fiume, a piangere per 3 giorni interi perché Joe, il vecchio negro che lo aveva allevato, era morto. A volte mi domando che cosa la gente usi al posto del cervello. Pensa a quei ragazzi, hanno paura di sedersi a mangiare vicino a un negro, ma divorano le uova che escono dal culo delle galline. Oh, Iggy! Iggy rise. Scusami, ma certe volte mi fanno proprio arrabbiare. Lo so, cara, ma non è proprio il caso, credimi. La gente è fatta così e non si può fare nulla per cambiarla, proprio nulla. Iggy le sorrise e si domandò che cosa sarebbe accaduto se non avesse avuto Ruth con cui sfogarsi. Anche Ruth sorrise. Tutte e due sapevano di dover prendere una decisione sul da farsi e la presero senza perdere tempo. Dopo quel giorno, l'unica cosa che cambiò fu il menù appeso fuori dalla porta della cucina. Tutto costava 10 centesimi meno. Quel che è giusto è giusto. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 6 aprile 1933. Il caffè cambia menù. La settimana scorsa gli avventori del caffè hanno avuto una grossa sorpresa quando hanno letto il nuovo menù che elencava tra le altre cose filetto di opossum, costoletta di puzzola, fegato di capra con cipolle, budino di rospo e torta di tacchino e poiana alla mode. Una coppia venuta apposta da Gate City per cenare dopo aver letto il menù era già a metà isolato quando Iggy ha aperto la porta gridando «Pesce d'aprile!». La coppia di Gate City ha ordinato dal solito menù e ha gustato, come omaggio della casa, una torta alla crema di cocco. Per finire, la mia dolce metà l'altro giorno ha lasciato entrare in casa uno dei suoi vecchi cani da caccia che si è portato il suo osso e io ci ho inciampato rompendomi un'alluce. Il dottor Hedley me lo ha fasciato, ma dovrò recarmi al lavoro in pantofole e per un po' non potrò uscire a farmi raccontare le ultime novità. Quindi, se avete qualche notizia, portatemela voi all'ufficio postale. Dot Wims. Birmingham, Alabama, 19 gennaio 1986. Era di nuovo domenica. Evelyn e suo marito Ed Couch si stavano preparando per andare alla casa di riposo. Lei spense la caffettiera e desiderò di essere altrove, ma Ed era così suscettibile nei confronti di tutto quanto riguardava sua madre che lei non avrebbe mai osato rifiutarsi di accompagnarlo e fare almeno un saluto a quella suocera esigente e lamentosa. Andare a trovarla era una tortura per Evelyn. Detestava l'odore di malattia, di disinfettante e di morte. Le ricordava sua madre, i dottori e gli ospedali. Evelyn aveva 40 anni quando sua madre era morta. Da allora erano iniziate tutte le sue paure. Adesso, quando leggeva il giornale del mattino, correva subito ai necrologi ancora prima di leggere l'oroscopo. Era contenta quando le persone erano trapassate intorno ai 70 o agli 80 anni e felicissima quando il defunto superava i 90. Questo la faceva sentire al sicuro, ma quando leggeva di qualcuno morto intorno ai 40 o ai 50 anni restava turbata per tutto il giorno, soprattutto se alla fine del necrologio la famiglia sollecitava una donazione per la Lega contro i tumori. Ma restava ancora più sconvolta quando la causa della morte non veniva specificata. Spentosi dopo una breve malattia. Quale malattia? Mancato all'improvviso? Perché? Che genere di incidente? Voleva tutti i dettagli, nero su bianco. Niente doveva essere lasciato alla fantasia e non sopportava che le famiglie sollecitassero donazioni filantropiche. Che cosa era successo? Rabbia, morso di cane, febbre catarrale? Ma ultimamente le donazioni richieste erano quasi sempre destinate alla Lega contro i tumori. Evelyn si chiedeva perché era costretta a vivere in un corpo che sarebbe invecchiato, si sarebbe deteriorato e le avrebbe causato dolore. Perché non poteva vivere in un tavolo, un solido tavolo di quercia, o una stufa, o una lavatrice? Avrebbe preferito essere curata da un elettricista o da un idraulico, piuttosto che da un dottore. Mentre pativa i dolori del travaglio, il dottor Clyde, il suo ostetrico, le aveva mentito spudoratamente. Signora Couch, appena vedrà il suo piccolo, dimenticherà tutta questa sofferenza. Quindi si sforzi e spinga un po' più forte. Non le resterà neppure un pallido ricordo di tutto questo, glielo assicuro. Falso. Ricordava ogni fitta dalla prima all'ultima e non avrebbe mai messo al mondo il secondo figlio se Ed non avesse insistito per avere un maschio. Un'altra menzogna da denunciare. Il secondo le aveva fatto male quanto il primo, se non di più. Aveva tenuto il muso a Ed per tutti i 9 mesi dell'attesa e grazie al cielo era nato Tommy, perché per quanto la riguardava il secondo figlio sarebbe stato anche l'ultimo. Aveva avuto paura dei medici per tutta la vita. All'inizio la sua era stata una semplice avversione, ma adesso li odiava, li detestava e li disprezzava. Da quando un dottore era entrato nella stanza d'ospedale di sua madre in quel giorno fatidico, con in mano la cartella clinica. Quell'insignificante dio di latta con il vestito di poliestere e le scarpe lustre, così compiaciuto di sé, così tronfio con le infermiere che gli ronzavano intorno come geishe. Non era neppure il medico curante di sua madre. Sostituiva qualcun altro quella mattina. Evelyn era in piedi accanto al letto con la mano della madre tra le sue. Quando aveva fatto il suo ingresso, il verme non si era neppure presentato. Buongiorno, dottore, aveva detto lei. Io sono la figlia Evelyn Couch. Sua madre, aveva blatterato lui senza neppure alzare gli occhi dalla cartella, soffre di un cancro al polmone in rapida evoluzione con metastasi al fegato, al pancreas e alla milza e presumibilmente anche al midollo. Fino a quel momento sua madre non aveva neppure saputo di avere il cancro. Evelyn non aveva voluto dirglielo per non spaventarla. Avrebbe ricordato lo sguardo terrorizzato di lei finché fosse vissuta e non avrebbe mai dimenticato quel dottore, che aveva proseguito il suo giro di visite attorniato da una piccola corte. 2 giorni dopo la madre era entrata in coma. Non avrebbe mai scordato neppure la sala d'aspetto del reparto di terapia intensiva, grigia, sterile, con le pareti di cemento. Ne aveva trascorso 2 settimane, spaventata e confusa, come tutti gli altri suoi compagni di attesa. I loro cari giacevano in fondo al corridoio, in una stanza fredda e senza sole, aspettando di morire. Erano tutti perfetti estranei, chiusi in quel poco spazio, e probabilmente stavano vivendo insieme i momenti più intimi e dolorosi delle loro vite. Nessuno sapeva che cosa fare, che cosa dire. Non c'erano regole di etichetta per questa situazione. Nessuno li aveva preparati ad affrontare quella prova. Erano tutte povere persone, terrorizzate quanto lei, che si sforzavano di mostrare coraggio parlando della loro vita di tutti i giorni e cercavano di nascondere lo shock fingendo di coltivare ancora speranze. Una famiglia era talmente terrorizzata che i componenti non volevano accettare il fatto che la donna morente in fondo al corridoio fosse la loro madre. Ne parlavano sempre come della loro paziente e chiedevano a Evelyn come stesse la sua paziente. In questo modo cercavano di allontanare da sé il più possibile la verità e di alleviare la sofferenza. Ogni giorno aspettavano insieme, sapendo che prima o poi sarebbe giunto per ciascuno il terribile momento di prendere la decisione, cioè di scegliere se spegnere o no le macchine che tenevano in vita i loro cari. È meglio così. Finalmente smetteranno di soffrire. È quello che avrebbero voluto anche loro. Il dottore dice che sono già clinicamente morti. È solo una formalità tecnica. Una formalità tecnica? Tutte queste discussioni pacate da persone adulte quando lei avrebbe voluto gridare chiamando la mamma, la sua dolce, cara mamma, la persona che l'aveva amata di più al mondo. Quel sabato il medico era entrato nella sala d'attesa e aveva scrutato le facce. Tutti gli occhi erano puntati su di lui e la conversazione si era interrotta. Signora Couch, può venire un momento nel mio ufficio, per favore? Mentre prendeva la borsetta con mani tremanti e il cuore che le martellava in petto, gli altri l'avevano guardata con simpatia e una donna le aveva toccato un braccio, ma in segreto erano sollevati che non fosse toccato a loro. Come in un sogno, lei aveva ascoltato le parole del medico. Per lui era tutto molto semplice e naturale. Non c'è motivo di prolungare l'agonia. Era un discorso sensato. Evelyn si era alzata come uno zombie ed era andata a casa. Pensava di essere pronta ad accettare la necessità di lasciarla morire, ma nessuno è mai veramente pronto a spegnere la macchina che tiene in vita la propria madre, nonostante quello che credeva di poter pensare prima. Significa spegnere la luce della propria fanciullezza e andarsene, così come si spegne una lampadina prima di uscire da una stanza. Non si sarebbe mai perdonata per non avere trovato il coraggio di tornare in ospedale e restarle vicina. Ancora adesso si svegliava piangendo, straziata dai sensi di colpa, e non c'era modo di rimediare ormai. Forse tutte quelle esperienze avevano segnato l'inizio della paura che Evelyn provava nei confronti di medici e ospedali. Non ne era sicura, però. Sapeva solo che il pensiero di andare da un dottore la faceva sudare freddo e tremare, e il solo suono della parola cancro le faceva rizzare i capelli. Aveva smesso di palparsi il seno, perché una volta aveva sentito una specie di bernoccolo e per poco non era svenuta. Fortunatamente si trattava solo di un fazzoletto di carta rimasto attaccato al reggiseno in lavatrice. Sapeva che la sua era una paura irragionevole e che sarebbe dovuta andare in ospedale per un check-up. Consigliavano di farne uno ogni anno. Evelyn si rendeva conto che avrebbe dovuto sottoporvisi, se non per lei, almeno per i figli, ma proprio non riusciva a decidersi. Nei suoi rari momenti di coraggio prendeva appuntamento, ma il giorno prima trovava sempre una scusa per annullarlo. L'ultima volta che aveva visto un medico era stato 6 anni prima per un'infezione alla vescica. Aveva sperato che il dottore si limitasse a prescriverle degli antibiotici per telefono, ma lui le aveva chiesto di andare in ambulatorio per un esame pelvico. Mentre era lì, sdraiata con i piedi nelle staffe, si era chiesta se esistesse qualcosa di peggio di uno sconosciuto che ti fruga dentro cercando chissà che cosa, come se tu fossi il banco di una pesca miracolosa. Il dottore le aveva chiesto da quanto tempo non si faceva esaminare il seno. Da 3 mesi, aveva risposto lei. Già che è qui, tanto vale che le faccia un'altra visita. Lei si era messa a parlare come una mitragliatrice nel tentativo di distrarlo, ma nel bel mezzo della palpazione lui aveva detto: "Ai, ai, c'è qualcosa che non mi piace qui". I giorni trascorsi in attesa dei risultati dell'esame erano stati un inferno. Evelyn aveva vissuto in una specie di nebbia, pregando e stipulando patti con un Dio nel quale non era neppure sicura di credere. Aveva promesso che se i risultati fossero stati negativi non si sarebbe lamentata mai più di nulla, avrebbe trascorso il resto della sua esistenza a rallegrarsi di essere viva, a compiere buone azioni per i poveri e sarebbe andata in chiesa ogni giorno. Ma il giorno dopo aveva scoperto di essere sana e per nulla in punto di morte, come già aveva immaginato, ed era tornata quella di sempre. Solo che adesso, dopo quello spavento, era convinta che ogni dolore denunciasse l'insorgenza di un tumore. Se fosse andata dal dottore a farsi visitare, non solo avrebbe scoperto di essere incurabilmente malata, ma sarebbe stata sottoposta a un'auscultazione al petto con uno stetoscopio che il medico l'avrebbe fatta ricoverare in ospedale per un'operazione a cuore aperto prima che lei potesse sfuggirgli. Insomma, viveva con un piede nella fossa. Quando si guardava il palmo della mano, le sembrava persino che la linea della vita diventasse ogni giorno più corta. Sapeva che non avrebbe retto un'altra volta all'attesa dei risultati di un esame e aveva deciso che preferiva non sapere se era malata e morire così su 2 piedi, possibilmente fulminata da un colpo. Quella mattina, mentre andavano alla casa di riposo, si rese conto che la sua vita stava diventando insopportabile. Ogni mattina mentiva a se stessa con il solo scopo di arrivare a sera. Per esempio, si diceva che quel giorno sarebbe accaduto qualcosa di stupendo, che il telefono sarebbe squillato e avrebbe annunciato una notizia destinata a mutare il suo destino. Oppure avrebbe trovato una sorpresa nella posta. Ma nella cassetta trovava sempre fatture e pubblicità. Al telefono era sempre qualcuno che aveva sbagliato numero o una vicina che voleva qualcosa. La disperazione e la muta isteria avevano avuto inizio quando si era resa conto che nulla sarebbe mai cambiato, che nessuno sarebbe mai venuto a salutarla. Adesso si sentiva come in fondo a un pozzo dove, per quanto gridasse e strillasse, nessuno l'avrebbe sentita. Ultimamente era stato un continuo susseguirsi di nottate nere e interminabili e di mattine grigie, il cui senso del proprio fallimento la sopraffaceva come un'ondata oceanica, e aveva paura. Ma non era più la morte a spaventarla. Aveva guardato in fondo al pozzo nero della morte e aveva desiderato saltarvi dentro, e non una volta soltanto. Anzi, a ben pensarci, l'idea la tirava ogni giorno di più. Sapeva anche come si sarebbe uccisa, con una pallottola d'argento, tonda e liscia come una pallina di ghiaccio tuffata nel martini. Avrebbe tenuto la pistola nel freezer per qualche ora prima di spararsi, per sentirla fredda e gelata contro la tempia. A volte le pareva quasi di sentire la pallottola ghiacciata attraversarle il cervello in ebollizione, congelando una volta per sempre le sue sofferenze. L'esplosione dello sparo sarebbe stato l'ultimo suono che avrebbe sentito, e poi il nulla. Forse solo il rumore del silenzio, come quello che sentono gli uccelli quando volano in alto, sopra la terra, respirando l'aria pura e fresca della libertà. No, non era la morte a spaventarla. Era questa sua vita di ogni giorno che cominciava a ricordarle troppo da vicino la grigia sala d'aspetto del reparto di terapia intensiva. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 16 maggio 1934. Berta Vick morsa da una pantegana. Berta Vick ha riferito che venerdì notte, intorno alle 2 del mattino, è stata morsa nel bagno da una pantegana che è emersa dal water dopo aver risalito i tubi di scarico. Lei si è precipitata a svegliare Harold, che non ha voluto crederle, ma è andato di persona a verificare e ha visto la pantegana nuotare nel water. La mia dolce metà sostiene che la colpa è tutta delle inondazioni. A Berta non importa sapere per quale motivo la pantegana sia arrivata in casa sua, ma d'ora in poi controllerà sempre prima di sedersi su un qualunque water. Harold sta facendo impagliare la pantegana. Qualcuno di voi ha ricevuto una bolletta della luce salata questo mese? La mia era salatissima, il che mi sembra strano. La mia dolce metà è stata per una settimana a pesca con suo fratello Alton ed è sempre lui a lasciare le luci accese. Per questo non me lo spiego. Se qualcun altro di voi ha riscontrato anomalie nella propria bolletta, me lo faccia sapere. Per finire, Essie Rue ha trovato lavoro a Birmingham, dove suonerà l'organo per lo show radiofonico di una compagnia assicurativa su Radio Whoopi. Non perdetevela! Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 19 gennaio 1986. La signora Threadgood pensò che Evelyn non fosse venuta alla casa di riposo quella domenica e si mise a camminare nel corridoio riservato alle sedie a rotelle. Quando girò l'angolo, vide Evelyn seduta tutta sola su una delle sedie a rotelle, intenta a mangiare dei dolci, mentre grosse lacrime le rotolavano giù per le guance. La signora Threadgood le fu subito accanto. Che cosa le succede, cara? Evelyn la guardò. Non lo so, rispose, e continuò a piangere e a mangiare dolciumi. Coraggio, prenda la borsetta e facciamo due passi. La signora Threadgood le prese la mano e la fece alzare dalla sedia, costringendola a passeggiare su e giù per il corridoio. Adesso mi dica tutto, cara. Di che cosa si tratta? Per quale motivo è tanto triste? Non lo so, ripeté Evelyn e riprese a singhiozzare. Oh, non può essere così grave. Provi a dirmi qualcuna delle cose che la preoccupano. Beh. Da quando i ragazzi sono andati al college mi sento tanto inutile. È comprensibile, mia cara, succede a tutti. E, proseguì Evelyn, non riesco a smettere di mangiare. Ci ho provato molte volte. Ogni giorno mi sveglio e giuro a me stessa che rispetterò la dieta. E ogni giorno non mantengo la promessa. Nascondo pacchetti di caramelle in tutta la casa, in garage. Non so che cosa mi sia preso. Qualche caramella non può farle certo male, tesoro. Qualche caramella, no, ma 5 o 6 pacchetti al giorno sì. Vorrei avere il coraggio di ingrassare del tutto e farla finita, oppure la forza di volontà di dimagrire. Invece così mi sento bloccata a metà strada. Il movimento di liberazione della donna è arrivato troppo tardi per me. Ero già sposata con 2 figli quando ho scoperto che non avrei mai dovuto sposarmi. Io credevo che fosse obbligatorio, che cosa ne sapevo? E ormai è tardi per tornare indietro. Mi sembra che la vita mi sia passata accanto. Evelyn guardò la signora Threadgood attraverso le lacrime. Oh, signora Threadgood, sono troppo giovane per essere vecchia e troppo vecchia per essere giovane. Non riesco a collocarmi in nessuna categoria. Vorrei uccidermi, ma non ne ho il coraggio. La signora Threadgood era sbalordita. Evelyn Couch non deve neppure pensare a una cosa del genere. È come infilzare una spada nel fianco di Gesù. Non deve parlare così. Deve farsi coraggio e aprire il suo cuore al Signore piuttosto. Lui l'aiuterà. Lasci che le domandi una cosa. Le dolgono i seni? Evelyn la guardò. Ogni tanto. Le dolgono anche la schiena e le gambe. E sì, come fa a saperlo? È semplice. Lei è entrata in menopausa. È solo questo il suo problema. Deve prendere i suoi ormoni e fare ogni giorno una passeggiata all'aria aperta. Vedrà che le passerà. Com'è ha funzionato? Scoppiavo in lacrime mangiando una bistecca e pensando alla povera vacca che era morta per donarmela. Devo avere tirato matto il povero Cleo con tutte quelle lacrime fuori luogo. Ed ero convinta che nessuno mi amasse. Quando lo tormentavo così, lui mi diceva: deve essere l'ora della tua iniezione di B12, Ninni. E mi faceva la puntura proprio qui. Uscivo a passeggiare ogni giorno, andavo lungo i binari, su e giù, proprio come stiamo facendo noi adesso, e dopo un po' mi sentivo meglio e tornavo a comportarmi normalmente. Pensavo di non avere ancora l'età per la menopausa, confessò Evelyn. Ho appena compiuto i 48. Succede a molte donne di entrare in menopausa ancora giovani. Ce n'è stata una in Georgia che ne aveva solo 36. Un bel giorno salì con la macchina agli scalini del tribunale della contea, abbassò il finestrino e buttò al volo un poliziotto alla testa di sua madre, che aveva appena decapitato in cucina, gridando: «Non era questa che volevate?» Poi è ridisceso in retromarcia alla scalinata del tribunale. Ecco che cosa può succederti in menopausa se non stai attenta. «Crede davvero che sia questo il mio problema? È per questo che sono così irritabile?» È naturale, è peggio dei cavalli di una giostra, su e giù. Per quanto riguarda il peso, mia cara, lei non ha alcuna voglia di tornare magra. Provi a dare un'occhiata a questi vecchi. Sono quasi tutti pelle e ossa. Oppure vada all'ospedale Battista e visiti il reparto dei malati di cancro. A loro piacerebbe avere addosso qualche chilo in più. Lottano ogni giorno per non dimagrire, quindi smetta di preoccuparsi del peso e ringrazi il cielo di essere sana. Quello che deve fare adesso è leggere ogni giorno la parola e il Salmo numero 90 e vedrà come si sentirà meglio dopo. Evelyn domandò alla signora Threadgood se non le capitasse mai di sentirsi depressa. La signora Threadgood rispose dicendo la verità. Ultimamente direi proprio di no. Sono troppo grata a Dio per le mie benedizioni. Ne ho avute così tante che non so neppure contarle. Non mi fraintenda, tutti hanno i loro dispiaceri e qualcuno più degli altri. Ma lei sembra così felice, come se non avesse mai avuto un problema in vita sua. La signora Threadgood rise all'idea. Oh, ho avuto anch'io la mia parte di problemi e ciascuno mi ha fatto versare la mia dose di lacrime. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta come mai Dio avesse deciso di caricarmi sulla schiena un fardello tanto pesante. Certe volte ho creduto che non avrei potuto sopravvivere un solo giorno di più, ma lui dà a ciascuno solo quello che è in grado di sopportare. E le dirò un'altra verità: non ci si può dibattere nella tristezza, perché fa ammalare più in fretta di qualunque altra cosa al mondo. Ha ragione, ha senz'altro ragione. Ed dice che forse dovrei andare in cura da uno psichiatra. Oh, non è necessario, mia cara. Quando le viene voglia di scambiare due parole, venga a trovare me. Sarò felice di ascoltarla e ancora più felice di avere la sua compagnia. Grazie, signora Threadgood. Verrò. Evelyn guardò l'orologio. Adesso deve andare, devo andare, altrimenti Ed si arrabbierà. Aprì la borsetta e si soffiò il naso con il fazzoletto di carta che fino a poco prima aveva avvolto dei confetti al cioccolato. Mi sento già meglio, sa? Davvero. Ne sono felice, pregherò per i suoi nervi, cara. Deve andare in chiesa e chiedere al Signore di alleggerire il peso delle sue sofferenze, di aiutarla a superare questo brutto periodo, proprio come ha fatto tante volte con me. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana, allora, disse Evelyn e si avviò lungo il corridoio. Nel frattempo, prenda anche qualche compressa antistress. Le numero 10 sono miracolose, le gridò dietro la signora Threadgood. Le numero 10. Sì, le numero 10. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 8 giugno 1935. Grande successo del Drama Club. Venerdì sera il Drama Club di Whistle Stop ha dato la sua recita annuale e voglio complimentarmi con le ragazze. Il titolo della tragedia era Amleto. del drammaturgo inglese William Shakespeare, che non è del tutto sconosciuto a Whistlestop, perché ha scritto anche la commedia rappresentata l'anno scorso. Amleto era Earl Hancock Jr. e il ruolo della sua fidanzata era interpretato dalla nipote del dottor Hedley, Mary Bess, temporaneamente ospite della nostra città. Nel caso non abbiate visto la recita, lei alla fine si uccide. Mi dispiace dover ammettere che ho fatto fatica a sentirla, ma secondo me quella povera bambina è ancora troppo giovane per viaggiare. Nella parte della madre e del padre di Amleto c'erano Vesta Hancock, presidentessa del Drama Club e madre di Earl J., e il reverendo Scroggins. Dell'accompagnamento musicale siamo debitori alla nostra Essie Rue Limeway, che ha contribuito a rendere ancora più eccitante la scena del duello. Per finire, Vesta dice che l'anno prossimo scriverà lei una commedia. E la intitolerà Storia di Whistlestop. Se qualcuno ha qualcosa da raccontare, corra subito a riferirgliela. Dot Wims. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama. 26 gennaio 1986. Evelyn si trattenne lo stretto necessario per dare un saluto educato alla suocera e si precipitò nel salottino dove la sua amica la stava già aspettando. Come va oggi, cara? Bene, signora Threadgood, e lei? Sto bene anch'io. Si è procurata quegli antistress di cui le ho parlato? Certo. Sono serviti? Sa, signora Threadgood, credo proprio di sì. Sono contenta. Evelyn cominciò a frugare nella borsetta. Che cos'ha di buono oggi? 3 pacchetti di uva passa, se riesco a trovarli. Uva passa? Deve essere ottima. Ma cara, non ha paura di attirare le formiche nella borsetta portandosi sempre dietro tutti quei dolciumi? Oh. Non ci avevo mai pensato, confessò Evelyn e trovò quello che stava cercando più una scatoletta di mentine. Grazie, cara. Adoro le caramelle. Mi piacevano molto anche le Muma. Si attaccano alla dentiera. Entrò un'infermiera negra di nome Jeanine. Cercava il signor Dunaway per dargli tranquillanti, ma nel salottino erano sedute soltanto le 2 donne. Dopo che se ne fu andata, la signora Threadgood osservò quanto fosse strano che la gente di colore avesse tante sfumature diverse di pelle. Prenda Onsel, la moglie di Big George. Era appena appena scura, con i capelli rossi e le lentiggini. A sua madre si spezzò il cuore quando sposò Giorgio, che era come il carbone, ma lei non poteva farne a meno. Disse che aveva sempre sognato un gigante nero e Giorgio era di certo l'uomo più imponente e più scuro che si fosse mai visto. Onsel ebbe 2 gemelli. Jasper era chiaro come lei. Artis era tanto nero da avere le gengive blu. Onsel non riusciva a credere che da lei fosse uscito un essere tanto scuro. Le gengive blu? Proprio così, cara. E non si potrebbe essere più neri. E poi nacque Willy Boy, chiaro come lei e con gli occhi verdi. Naturalmente il suo vero nome era Consigliere Meraviglioso, come nella Bibbia, ma tutti noi lo chiamavamo Willy Boy. Consigliere Meraviglioso? Non me lo ricordo, è sicura che sia nella Bibbia? Certo, Onsel ci mostrò il passo esatto ed egli sarà chiamato Consigliere Meraviglioso. Onsel era molto religiosa. Diceva sempre che se qualcosa andava male le bastava pensare al suo dolce Gesù perché il suo spirito lievitasse, proprio come i biscottini al latticello. Poi arrivò Naughty Bird, uccellino monello, nera come suo padre con quei buffi capelli stopposi, ma lei non aveva le gengive blu. Non mi dica che anche questo nome viene dalla Bibbia. La signora Threadgood rise. Proprio no, cara. Sip si diceva sempre che la bambina somigliava a un uccellino tutto piume e ossa, e la piccola Naughty Bird andava sempre in cucina a rubare un paio di quei biscottini al latticello, per poi nascondersi a mangiarli da qualche parte. Così Sip si le affibbiò quel nomignolo. A pensarci bene, è proprio vero che assomigliava a un piccolo corvo, e così nella stessa famiglia c'erano 2 figli neri e 2 figli chiari. A proposito, ora che ci penso, non ci sono persone di colore qui a Rosters, tranne le inservienti e qualche infermiera. Una di loro è proprio in gamba, con tanto di diploma. Si chiama Jeanine, è un fiore di ragazza e parla come una professoressa. Mi ricorda un pochino Sipsy, anche lei era così indipendente. La vecchia Sipsy visse da sola a casa sua fino al giorno della morte. È lì che voglio essere quando me ne andrò a casa mia. Non voglio tornare in ospedale. Quando si arriva alla mia età, ogni volta che ci si entra ci si domanda se si riuscirà a venirne fuori, e comunque non credo che gli ospedali siano un posto sicuro. La mia vicina, la signora Hartman, ha una cugina nell'ospedale di Atlanta, la quale le ha raccontato di un paziente che era uscito dalla sua stanza per respirare una boccata di aria fresca ed è stato ritrovato solo 6 mesi dopo chiuso fuori sul tetto. Quando l'hanno trovato erano rimasti soltanto lo scheletro e la camicia da notte. Il signor Dunaway mi ha detto che gli hanno rubato la dentiera dal bicchiere mentre lui era in sala operatoria. A chi può mai venire in mente di rubare la dentiera a un vecchio? Proprio non saprei, commentò Evelyn. Non lo so nemmeno io. Trutville, Alabama, 2 giugno 1917. Quando Sipsi mostrò a Onze i gemelli che aveva appena messo al mondo, quasi non riusciva a credere ai propri occhi. Il maggiore Jasper era color caffè latte e l'altro, Artis, era nero come il carbone. Quando Big George li vide non la smetteva più di ridere. Sipsi spiò nella bocca di Artis. «Guarda, George, questo bambino ha le gengive blu!» E scosse la testa perplessa. «Che Dio ci aiuti!» Ma Big George, che non era superstizioso, stava ancora ridendo. 10 anni più tardi non trovava più la cosa molto divertente. Aveva appena frustato Artis con tutte le sue forze per aver pugnalato il fratello Jasper con un temperino. Artis glielo aveva conficcato 5 volte nel braccio prima che l'altro riuscisse a sollevarlo di peso e a gettarlo dall'altra parte del giardino. Dopodiché Jasper era corso al caffè stringendosi il braccio sanguinante e chiamando la mamma. Big George era fuori sul retro a preparare il barbecue e quando vide il figlio lo portò immediatamente a casa del dottore. Il dottor Hadley lo ripulì e lo bendò e quando Jasper gli disse che era stato il fratello a ferirlo, Big George si sentì umiliato. Quella notte i due fratelli non riuscivano a prendere sonno. Sdraiati a letto guardavano la luna fuori della finestra e ascoltavano il gracidio delle rane e lo stridio dei grilli nella notte. Artis si girò verso il fratello che nella luce lunare sembrava quasi bianco. So che non avrei dovuto farlo, ma mi piaceva così tanto che non riuscivo più a smettere. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 1 luglio 1935, incontro del gruppo biblico. Il gruppo di studio biblico, composto dalle donne della Chiesa Battista di Whistle Stop, si è riunito mercoledì mattina della settimana scorsa a casa della signora West Adcock per discutere su come studiare la Bibbia e renderla di più semplice comprensione. L'argomento era l'arca di Noè. Perché Noè lasciò salire sull'arca i due serpenti quando sarebbe stata l'occasione buona per sbarazzarsene una volta per tutte? Se qualcuno ha una spiegazione, vada subito da Vesta. Sabato, Ruth e Iggy hanno dato una festa di compleanno per il loro ragazzo. Tutti gli ospiti si sono divertiti ad appuntare la coda sull'asinello e hanno mangiato torta e gelato. Ciascuno ha ricevuto una locomotiva di vetro piena di palline di zucchero. Iggy dice che venerdì sera torneranno al cinema, nel caso qualcuno voglia unirsi alla compagnia. A proposito di cinema, l'altra sera, quando sono rincasata dall'ufficio postale, la mia dolce metà aveva una tale fretta di andare a Birmingham a vedere il film prima che il prezzo aumentasse, che non mi ha neppure lasciato il tempo di entrare dalla porta. E poi, quando siamo arrivati là, per tutto il film non ha fatto altro che lamentarsi del mal di schiena. Infine, quando siamo arrivati a casa, ha scoperto che nella fretta si era dimenticato di togliere l'appendiabiti dalla giacca. Gli ho detto che la prossima volta, pur di non farmi guastare la serata da lui, sono disposta a pagare il biglietto più caro. Per finire, qualcuna di voi vuole per caso comprare un marito usato in offerta speciale? Stavo scherzando, Wilbur. Dot Wims.